La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, e questo giovedì 15 di giugno dedichiamo la versione di Oscar a tentare di capire quale giudizio, quali elementi di giudizio offrirvi per capire e giudicare, ognuno liberamente da parte vostra, la riforma del procedimento penale che dopo anni di dibattito alla fine ieri è arrivato con il voto di fiducia alla Camera, che ha confermato il testo che era uscito dal Senato, a un approdo. È una riforma compromesso, come ovvio, ma tocca alcuni punti che riguardano non solo le tecnicalità del diritto, ma riguardano i diritti di tutti, le garanzie, no? E quindi ovviamente, come sempre nel dibattito pubblico italiano, cari ascoltatori, c'è la riproposizione di due grandi istanze contrapposte. Da una parte ovviamente lo Stato, di cui si fanno portavoce i magistrati, che pretende di avere una giustizia le cui regole siano conformate al fatto che la giustizia è inefficiente, ai tempi lunghi eccetera. Quindi lo Stato dice mi dovete dare i tempi e istituti tali per cui l'inefficienza non consenta, e questo fa molta presa popolare, ai delinquenti di poterne approfittare. E questo significa meno garanzie per tutti. Dall'altra parte c'è chi come me, minoritario, pensa no. Un ordinamento c'è a tutela dell'individuo ogni qualvolta lo Stato ritenga di avere elementi per perseguirlo, prima di indagarlo e poi di perseguirlo. Per me le leggi dell'ordinamento penale sono a tutela insindacabilmente del cittadino, non delle esigenze dello Stato. Naturalmente dietro ci sono secoli di filosofia del diritto, dietro è la lunga eredità pesantissima del positivismo giuridico, dell'idealismo filosofico, per cui lo Stato etico viene prima di tutto, viene prima dell'individuo, della società naturale, quindi lo Stato etico ha sempre ragione. E abbiamo tonnellate di giurisprudenza, ce ne siamo occupati pochi giorni fa ancora, della giurisprudenza di Cassazione che dice per esempio l'Agenzia delle Entrate prevale sulla legge con una sua nota interna, e lo Stato etico hegeliano, lo Stato ha ragione, per le sue esigenze di cassa se ne può fottere del tuo diritto, caro contribuente, a maggior ragione in materia penale, quando ovviamente le diverse tipologie di reati e delitti possono avere, in molti casi hanno, un impatto sulla società di potenziale forza di distruttiva dei fondamenti della società civile bene ordinata, quando sono delitti contro la persona, contro la sicurezza, contro la proprietà, delitti di corruzione pubblica o che ne so, di pedopornografia, tutte circostanze nelle quali lo Stato etico dice ovviamente in questo caso vengo prima io rispetto ai diritti dell'indagato. Allora, questo scontro è uno scontro che in molti dei punti toccati dagli interventi ieri si ripropone puntualmente, ed è uno scontro che da decenni la politica italiana non riesce a risolvere in maniera equilibrata, con la giacca tirata da una parte dai magistrati e dalla politica giustizialista, e dall'altra balbettando in termini giuridici rispetto a richieste sempre più pressanti, e avendo commesso alle spalle errori terrificanti come le leggi ad personam di Berlusconi, cosa che ha ridato fiato ovviamente al giustizialismo. Io la penso così. Allora, prima di presentarvi l'ospite, come siamo messi con i giornali di oggi? Ve lo dico per farvi capire che i punti di vista sono diversi. Io mi ritrovo molto nel commento del appena diventato pensionato rispetto al fatto che è stato per anni ultimamente procuratore a Venezia, Carlo Nordio, sul Messaggero, che dice: nella riforma della giustizia un passo avanti e due indietro. Anzi, io mi ritrovo più nei due indietro che nel passo avanti. Vedremo quali sono. Luigi Ferrarella, su Corriere della Sera. Luigi Ferrarella, vicinissimo da sempre alle stanze dei magistrati. Tuttavia, anche Luigi Ferrarella titola: 1000 giorni sprecati per un compromesso al ribasso. E devo dire, mi ritrovo molto anche nel commento di Luigi Ferrarella. Repubblica non commenta con l'editoriale oggi, vedrete che arriverà nei prossimi giorni e sarà a parti contrapposte, sicuramente ospiterà l'opinione dei magistrati molto critici su quanto avvenuto ieri, ma insomma c'è una pagina che informa, dice: processo penale, nuova prescrizione, la riforma in porto. E si limita a informare su come dovrebbe funzionare la riforma. I capitoli sono la modifica delle norme sulla prescrizione, mafia e reati di strada, cioè i reati per cui le pene vengono inasprite, la giustizia riparativa, che viene citata da molti come un passo avanti per i diritti, perché se l'accusato salda il danno il reato viene estinto. Ma la disciplina delle intercettazioni, in cui i magistrati, insomma, come dico, ci sono limiti alla pubblicazione. Da come leggo io la norma, c'è una discrezionalità nella facoltà di fare le trascrizioni ancora più ampia che in passato, quindi per dare in pasto poi la gente che non c'entra niente con le indagini. Io la leggo così. Repubblica dice invece che ci sono limiti alla pubblicazione. Poi sull'avvocazione ci sono tempi più stretti per i PM che potranno perdere l'indagine, ma visto che il 70% delle prescrizioni avviene nel periodo di indagine, i magistrati dicono che questo significa è una norma contro la giustizia. E poi sui processi in teleconferenza, che secondo me vengono eccessivamente facilitati, comprimendo, visto la mancanza di strumenti tecnici, i diritti di chi sta a quel punto a processo, perché non stiamo parlando di chi è meglio che non si sposti perché è sottoposto quegli articoli del codice di esecuzione penale che prescrivono una detenzione a particolari livelli di sicurezza come i mafiosi. E qui stiamo parlando di norme generali. Allora, che dirvi? Lo stesso Sole 24 Ore, ho finito, preferisce fare un commento a doppia mandata. Da una parte c'è passi avanti, firmato da Paolo Tonini, dall'altra è passi indietro, il rischio di processi infiniti. E come si fa, cari ascoltatori? Su norme di questa importanza è possibile che tutti ci rifugiamo nel pilatismo? Allora, io non faccio il Ponzio Pilatismo, e già con la scelta dell'ospite, ma come sempre quando si tratta di norme penali, io non ho dubbi. Il 99% dice viva i magistrati, io rispetto l'opinione dei magistrati inquirenti, che dimenticano sempre che nel codice c'è scritto che dovrebbero dare uguale importanza anche alla ricerca di prove, però a favore di colui che stanno indagando. E però a quel punto io scelgo gli avvocati, mi dispiace, perché penso che le norme dell'ordinamento, e lo dichiaro, siano a tutela degli individui rispetto allo Stato, che è molto più potente degli individui. Beniamino Migliucci, quindi ospite, presidente della Camera Penale, grazie di essere con noi, presidente. Grazie a voi, buon pomeriggio. Lei che dice rispetto al piratismo dei giornali? Più norme passo avanti o più norme passo indietro? Ma io sono d'accordo con quanto ha detto Nordio e con quanto per esempio ha detto Sgubbi sul Sole 24 Ore. Sono dei passi indietro e ci sono delle norme che sono francamente inaccettabili. Lei ricordava prima il tema della prescrizione. Noi abbiamo delle regole costituzionali che imporrebbero un processo ragionevolmente breve, e invece noi adesso lo rendiamo infinitamente lungo. C'è stata una campagna... Aspetti, spieghiamo chi ci ascolta. La scelta sì. È stata quella di aggiungere fino a 18 mesi di sospensione dei termini di prescrizione del reato per cui si viene incarcerati a ogni grado di giudizio, e questo è ancorato alla gravità delle pene edittali. Quindi per reati per cui si finisce processati, magari a riposo di essere innocenti, come quelli per più gravi pene edittali, il processo potrà durare 20 anni. Esattamente, no, ma la cosa che volevo 20 dire anni. È questa... Esatto, ma che nel nostro paese non si dice che già dei processi durano 20 anni, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può durare 40 anni, la concussione 15 anni, la corruzione 12 anni e 6 mesi, la bancarotta 18 anni, non bastano questi anni per processare una persona? Questo è un pregiudizio non solo per chi è indagato e presunto innocente, ma anche per le persone offese, per la collettività. Davvero si dovevano aggiungere altri 3 anni? A fronte di problemi che sono organizzativi e di riforme, come ha ammesso il ministro Orlando, si vuole far pagare l'inefficienza dello Stato ai cittadini andando contro le regole della Costituzione, allontanandoci sempre di più dalla presunzione di innocenza e alimentando il processo mediatico che tutti a parole vogliono combattere. Aspetti, un altro dato, cari ascoltatori, quando il Presidente delle Camere Penali dice che i problemi non sono i termini di anni in più in tutto il sistema, ma per evitare le prescrizioni facili, quelle contro cui combattono i magistrati, così imboccando gli aumenti di prescrizioni, i numeri dicono che il problema è organizzativo, perché il 70% di 1.550.000 prescrizioni negli ultimi 10 anni è maturato nella fase delle indagini, punto numero uno, e comunque ci sono 4 distretti che producono da soli quasi metà di tutte le prescrizioni. Quindi il problema è organizzativo innanzitutto, o no? È proprio così. tanto è vero che proprio un'indagine statistica del Ministero ha rilevato che molti tribunali con parità di organico producono molte prescrizioni e altre non ne producono. Quindi è giusto proprio il discorso che faceva lei, è questione di efficienza, di organizzazione, e invece qual è il rimedio? Bene, dato che io non sono capace di organizzarmi, sai che c'è, caro cittadino? Ti faccio processare per 20 anni, così cominci un processo coi calzoni corti e lo finisci quando c'hai 2 figli grandi. Io credo che questa è una vita magari distrutta, perché a quel punto ti possono anche rendere innocente, ma tanto lo sappiamo tutti che è così, significa essere travolti nella reputazione. Se a 20 anni mi dicono che sono innocente, ma per 20 anni io sono stato presentato come un corruttore pubblico, io smetto di lavorare, non posso fare più niente. Ma sto facendo l'esempio di me, Oscar Giannino. Pensateci prima di battere le mani, cari ascoltatori, in nome del fatto, bene, bisogna essere più duri verso i delinquenti. Qui bisogna essere solo più indulgenti verso lo Stato inefficiente, aggiungendo termini di prescrizione. Ma comunque. Infatti, non solo, aggiungiamo che anche spesso i processi più importanti vengono anche accompagnati da sequestro, quindi si incide sui beni. E quando tu sequestri dei beni a una persona per 7, 8, 9, 10 anni, intanto l'hai rovinata. Credo che bisognerebbe rendersi conto di questo. Noi abbiamo fatto delle astensioni per dei mesi, abbiamo avuto qualche attenzione anche da parte della stampa, siamo riusciti a ritardare anche la fiducia alla Camera, abbiamo segnalato come anche il porre della fiducia sia un atto e un fatto gravissimo, perché di fatto il Parlamento ha abdicato alle sue funzioni. In materia di diritti e in materia di libertà non si dovrebbe mai porre la fiducia. Ma perché la politica rimane così? Cioè, oramai la questione della tutela dei diritti del cittadino rispetto alla giustizia penale sembra che sia invocata solo da chi rappresenta i ladri o gli evasori. Cosa è successo nella cultura del diritto italiano, nella sua rappresentanza politica, per arrivare a questo ribaltamento per cui chi non plaude le mani alle norme scritte per consentire allo Stato di essere inefficiente e di rappresentare la pretesa etica quando è il contrario, hanno la prevalenza assoluta? Perché, secondo lei? Ma guardi, qua intanto è successa una cosa molto strana, che c'è stata un'accelerazione improvvisa quando il ministro Orlando si è messo in competizione con Renzi per la segreteria del partito. Noi almeno abbiamo dato questa lettura, perché prima di fiducia non si parlava e c'erano ancora degli spazi di interlocuzione. Poi questa è una riforma che, come ha detto esattamente il procuratore Nordio, da una parte pone in essere qualche anche modifica corretta e razionale, dall'altra parte pone delle modifiche, delle riforme che vanno contro la cultura liberale. Lei parlava prima giustamente del processo a distanza, che è previsto, diciamolo per gli ascoltatori, per la criminalità organizzata, adesso per persone molto pericolose. Adesso con questa riforma chiunque venga detenuto per qualsiasi reato, a fronte di generiche esigenze di sicurezza o di celerità, potrà essere processato dal carcere. Cosicché noi, che avevamo immaginato in un paese liberale che la persona presunta innocente potesse affrontare il proprio processo dinanzi al proprio giudice, vicino al proprio difensore, adesso dovrà affrontare il proprio processo dal carcere, con un danno fenomenale anche per chi meno ha, perché i più abbienti potranno avere magari 2 difensori, certo, uno in carcere e l'altro davanti al giudice. Chi meno ha dovrà scegliere, a parte il fatto che questa è stata una scelta determinata dalla economicità presunta del provvedimento ispirata dalla Commissione Gratteri, a parte il fatto che i diritti non possono essere equiparati all'economia, ma anche questo è tutto indimostrato. Chi vive nei tribunali sa perfettamente che non esistono neanche i microfoni, che i tribunali cadono a pezzi, e noi immaginiamo di dotare tutte le carceri e tutti i tribunali di sistemi informatici così importanti che consentano di fare i processi a distanza. Che consentono di farli in modalità tecniche tale da non tradursi in una lesione del diritto di chi è processato, perché questo è il punto di fondo, cari miei, perché se noi lo mettiamo in condizione di non poter ascoltare e parlare, capite che diventa poi una burletta il processo e i diritti del processo. Torniamo tra un minuto, intanto... La versione di Oscar. Allora, stiamo parlando della riforma fiducia rapida sul testo del Senato e della Camera ieri, della revisione di alcuni punti importanti del procedimento del processo penale, e con noi il presidente della Camera Penale, Beniamino Migliucci. Per me già la norma sulle prescrizioni è intollerabile, una, 18 mesi in più, non capisco perché bisogna, si fanno le norme a tutela dello Stato inefficiente. Abbiamo visto che anche la norma sui teleprocessi rischia di essere una lesione profonda e sistematica dei diritti dei cittadini nei confronti dello Stato etico che prevale. Però io a questo punto devo fare una domanda, questa è una cosa che riguarda più i politici, gli uomini pubblici, quelli che temono la pubblicazione di intercettazioni, che però sapete a cascata poi oramai riguardano chiunque finisca, pur non essendo nel focus di un'indagine, a parlare alle utenze che vengono intercettate. Perché Beniamino Migliucci deve spiegare a chi ascolta come sia possibile che le norme approvate vengano interpretate in maniera così contrapposta. Faccio un esempio: oggi nell'editoriale di Nordio, di Caro Nordio, sul Messaggero, c'è scritto: con la norma attuale, se un magistrato fantasioso ritenesse che alcuni dialoghi intimi fossero significativi nel cosiddetto contesto, nulla gli impedirebbe di trascriverli rendendoli alla fine di pubblico dominio. È quello quindi del resto che si sta già facendo da anni. Questa è l'interpretazione della modifica della norma sulle intercettazioni da parte di Carlo Nordio. Repubblica sulla stessa cosa la presenta con, in un capitoletto, i diritti delle indagini. Repubblica oggi a pagina 13, perdonatemi, il Corriere della Sera a pagina 13, che dice invece: il PM garantirà il segreto degli ascolti irrilevanti, quindi più diritti ai cittadini. È vera la lettura del Corriere della Sera o è vera quella di Nordio? Non possono essere vere entrambe, scusi. No, beh, intanto credo che sia corretto dire che le norme nel nostro codice già ci sono ma non vengono applicate. A fronte di interpretazioni non corrette, noi abbiamo una norma che prevede che le intercettazioni possano essere disposte quando è assolutamente indispensabile. Il legislatore ha provato a scrivere queste due parole e nel nostro paese non è così. E ancora adesso bisognerebbe ricordare che dovrebbero, potrebbero essere divulgate eventualmente e nei tempi dovuti solo le intercettazioni che sono pertinenti al reato, e ciò non avviene. Ha ragione Carlo Nordio, con questa delega che è sufficientemente generica sul punto non si eliminerà il rischio ancora di propalazioni su persone e fatti che non sono pertinenti al processo. Aggiungo che in una materia così importante anche il segnale della delega, cioè l'idea che chi debba legiferare non è il Parlamento, ma sì, è il governo, credo che sia sufficientemente grave. Ma poi mi scusi, viene citato da alcuni giornali come un fondamentale passo avanti il fatto che il PM, il pubblico ministero, sarà il, virgolette, garante della segretezza delle intercettazioni. Ma perché, scusi, non è già così? Cosa cavolo cambia? Esatto. Cioè, quando mai l'ho visto io un PM rispondere del fatto che della sua procura, quando ancora gli atti non sono depositati, quindi ammessi all'accessibilità delle parti, allora magari possono essere gli avvocati delle parti a darle ai giornali, ma quando ancora non siamo in quella fase, ma lei l'ha mai visto un PM rispondere del fatto che viene violata la segretezza? Eppure, cosa cambia quindi? No, ma infatti è così, e lei deve pensare che noi siamo riusciti, abbiamo cercato con il ministro Costa a suo tempo e siamo riusciti quantomeno a far inserire la parola contraddittorio, perché dovrebbe già essere prevista un'udienza di stralcio nel contraddittorio per eliminare le intercettazioni che non riguardano il processo. Questo non avviene, già doveva avvenire, anche adesso c'è questa genericità di fondo per cui non si capisce quando dovrebbe avvenire questa udienza secondo la delega. Ma allora perché i magistrati protestano parlando di lesioni gravissime? Cioè, in cosa consiste, visto che l'aumento delle prescrizioni c'è stato, sulle intercettazioni non cambia nulla, l'ordine non cambia tutto, io non riesco a capire cosa. No, guardi, a cosa si deve la protesta dei magistrati? Allora, i magistrati protestano soprattutto per un fatto che è l'unica cosa positiva di questa riforma in materia di, è una delle cose positive di questa riforma in materia di intercettazioni, e cioè che pone un limite ai Trojan Horses, cioè c'era stata una sentenza delle Sezioni Unite che aveva anche allargato all'associazione per delinquere semplice la possibilità di adottare questi mezzi così invasivi, anche grazie al contributo delle Camere Penali questo è stato eliminato, per cui si dovrebbero adottare soltanto ai procedimenti di criminalità organizzata, così come corretto e giusto che sia. Noi viviamo molto spesso procedimenti nei quali viene contestata inizialmente un'associazione per delinquere che poi si rivela inesistente, e così vengono disposte le captazioni che poi vengono utilizzate anche in altri procedimenti. Ecco, qui c'è un limite che anche noi abbiamo fortemente voluto e che alla magistratura non piace, ma questo è uno dei pochi aspetti positivi della delega. Senta, quanto agli aggravamenti di pena previste per alcuni reati, lei e le camere penali sono convinte che questa sia la strada giusta con cui si sfama ogni tanto con un pezzo di carne di aggravamento di pena all'aspettativa dell'opinione pubblica? È così, sono ridicoli e sono inutili. L'aumento di pena non serve a nulla, non è mai un deterrente. Il deterrente è invece la ricetta che abbiamo indicato eventualmente noi. Cioè le indagini non devono avere una durata canzonatoria perché servono soltanto per sostenere l'accusa al giudizio, il dibattimento deve diventare il centro del processo come pretende un codice liberale accusatorio e si deve arrivare a una sentenza di assoluzione di condanna in tempi brevi. Questo costituisce un deterrente o può costituire un deterrente e poi naturalmente bisogna prendere le persone che commettono dei reati, questo è un altro tema da affrontare, ma l'aumento delle pene non serve, non è servito a niente, lo dimostra, se si volesse avere una solare manifestazione di questo, quando la legge Severino ha aumentato le pene per la corruzione, non mi pare che il fenomeno della corruzione sia diminuito. Sono completamente d'accordo con lei. Per dare un bel po' di esempio ai nostri ascoltatori, pensate davvero che serva qualche cosa oggi, per esempio, furto abitazioni, passare da 1 a 6 anni la pena attuale a 3 a 6, questa roba serve a qualcuno secondo voi? Secondo me no. Per il furto aggravato, invece che da 1 a 6 anni passa da 2 a 6 anni, cambia qualcosa? Cioè c'è un effetto in tutta questa raffica di modifiche continue del codice eccetera eccetera? Rapina semplice, tetto massimo 10 anni e resta, quello minimo passa da 3 a 4 anni, è una gran differenza 3 o 4 anni secondo voi? Ma potrei andare avanti a lungo, ecco, cioè queste robe che vengono spacciate, perché la politica sa che il giornale al massimo farà il titolito aggravati le pene per rapina, secondo me è puro effetto placebo, annuncio, naturalmente complicazione bestiale per chiunque lavori nell'ordinamento o finisca indagato o processato, però no, l'effetto studiato e accertato in chi poi verifica se le fattispecie diminuiscono a tutta questa millimetrica e sistemica graduazione verso il peggio delle pene edittali è nullo. Allora, mi spiega un'altra cosa, perché i magistrati protestano anche per i tempi più stretti dei pubblici ministeri in caso di perdita di indagine? Guardi, questo è davvero sintomatico, questo è l'articolo 18 che prevede, prevede un'accelerazione del processo, nel senso che dovranno decidersi se formulare una richiesta di archiviazione o chiedere rinvio a giudizio in 3 o 6 mesi. È una norma che è stata fortemente voluta dall'allora viceministro Costa e appoggiata da noi, ed è sintomatico che i magistrati si oppongano. È l'unica norma in questa riforma che pone il tema dell'accelerazione del processo. Sono d'accordo con lei e naturalmente i pubblici ministeri su questo sono contrari. Come avrete capito, sì, una lettura di parte da parte di Oscar Giannini e del presidente Beniamino Migliucci delle Camere Penali. Per noi vengono prima i diritti nostri piuttosto che quelli dello Stato, e quindi questa riforma per noi è piena più di difetti che di vantaggi. Ce n'è uno solo, quello a cui i magistrati si oppongono. Naturalmente ognuno si faccia la sua idea. Continuate con la 24, appuntamento come domani mattina alle 8:20, attenti alle 2.